Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Letizia Bricchetto Moratti, milanese sposata con due figli, laureata in scienze politiche, la prima assistente universitaria, poi broker nella società assicurativa di famiglia. Nel 94, durante il governo Berlusconi, è la prima donna presidente della RAI. Uscita dalla RAI, nominata presidente e amministratore delegato di News Corp Europa, la società di Murdoch, oggi proprietaria anche di Sky Italia. Dopo 5 anni al Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, è la prima donna eletta sindaco di Milano. Oggi si occupa di finanza sociale di San Patrignano, la comunità fondata da Vincenzo Muccioli e sostenuta dalla sua famiglia. Allora, dottoressa Moratti, la nostalgia della politica attiva? Ma ci sono tanti modi per far politica, io ne sto sperimentando uno nuovo. Senta, ma lei ha conosciuto, l'abbiamo detto, sia Murdoch che Berlusconi, sono fatti per combattersi o alla fine per allearsi? Sono fatti per allearsi quando hanno dei progetti, degli interessi comuni. Li avranno? Hanno dimostrato di averli a volte. Senta, Berlusconi è stato il suo leader quando lei è stata ministro e sindaco di Milano. Lo sente sempre? No, è tanto che non lo sento. Perché? Perché lo sentivo quando ero appunto ministro e sindaco. Adesso non capita. Senta, se lo aspettava il suo accordo con Renzi sulla legge elettorale? Sì, perché hanno interessi convergenti, sono due grandi partiti e quindi hanno interessi convergenti. È un passo avanti, insomma, la strada giusta per il paese, secondo lei? Secondo me sicuramente sì, è un accordo importante che penso dia frutti significativi se non ci saranno degli attacchi in Parlamento contro questo accordo. Senta, Renzi le piace? Sì, è simpatico, è un grande comunicatore, è un innovatore, sta imprimendo una forte accelerazione alla politica. Senta, ma un governo Renzi secondo lei aiuterebbe l'Italia a uscire dalla crisi? Dipende dal programma naturalmente, perché certamente c'è da insistere su cose che in questo momento non vengono ancora fatte, l'occupazione, la crescita. Lei ha detto, nella mia vita tutto passa, ma non la famiglia San Patrignano. Capisco bene la famiglia, ma perché San Patrignano? Perché San Patrignano è la mia seconda famiglia, è la mia famiglia allargata. Si sente lei l'erede di Vincenzo Muccioli? Assolutamente no, sono i ragazzi che in questo momento guidano San Patrignano come nel sogno di Vincenzo Muccioli. Ed è stata dolorosa la rottura col figlio di Vincenzo Muccioli? Andrea ha deciso di lasciare San Patrignano, probabilmente non era la sua vita, quindi come tutte le scelte, in ogni scelta c'è un momento di dolore e comunque le scelte vanno rispettate. Senta, dottoressa, Muccioli, cosa le ha insegnato che le è rimasto? A pensare un po' meno a se stessi, a pensare un po' di più agli altri. Ma chi era Vincenzo Muccioli? Per lei? Era un grande uomo, un grande amico, una persona con un grande cuore. Senta, oggi si parla di nuovo di liberalizzazione delle droghe leggere. Lei è favorevole? Assolutamente no. E perché? Ma perché sono tutte false le cose che vengono dette a proposito della liberalizzazione. Non è vero che diminuirebbe il commercio di droga. Lei non lo crede? No, assolutamente no. Ma non sarebbe un modo di togliere dalle mani della criminalità questo business? No, perché la criminalità comunque si indirizzerebbe verso altre fonti di ricavi e perché comunque le droghe fanno male e quindi la tutela della salute pubblica è comunque più importante. Senta, però in Colorado, per esempio, anche in Uruguay, lo Stato offre cannabis di qualità migliore a costi più bassi del mercato illegale. Beh, non può essere quella una strada? No, perché per ottenere dei risultati nella liberalizzazione bisognerebbe che tutti gli stati liberalizzassero contemporaneamente tutte le droghe a tutte le età. Lei si immagina qualcuno che pilota un aereo ed è drogato e può farlo perché è libero? Però il senso di responsabilità. Ma il senso di responsabilità quando uno prende droghe si affievolisce veramente tanto. Senta, a San Patrignano torneremo, ma intanto lei è tornata da dove era partita, cioè è tornata alla finanza. Dottoressa Moratti, lei dice dobbiamo cercare di avvicinare la buona finanza alle imprese sociali. Ma qual è la buona finanza? È la finanza che non guarda solo al profitto di breve periodo, è la finanza che guarda anche agli impatti sociali, è la finanza che sicuramente non è quella che abbiamo visto negli ultimi anni. Ecco, ma effettivamente le imprese del settore no profit sono in controtendenza rispetto alla crisi. Perché, secondo lei? Perché assolvono a compiti che per gli stati è sempre più difficile assolvere, quindi i bisogni essenziali delle persone, il bisogno di assistenza degli anziani, il bisogno di assistenza dei ragazzi in difficoltà, delle famiglie che si sono impoverite con la crisi, quindi in uno stato che nel welfare presenta sempre più difficoltà e taglia i costi. Ma l'impresa sociale di cui parla lei, se capisco, fa quello che lo Stato non può o non sa più fare, è così? Sì, non è che si sostituisce allo Stato, ma insieme allo Stato fornisce quei servizi che lo Stato non riesce più a fornire. Ormai c'è una diminuzione di servizi di assistenza domiciliare, di assistenza agli anziani, di servizi di welfare. Sì. Abbiamo anche avuto una sentenza della Corte di Strasburgo in questi giorni e l'Italia è tra i 38 paesi considerati carenti, quindi con delle pesanti violazioni sul tema dell'inclusione sociale e della povertà. E quindi qui si sostituiscono. Senta, ma quanto rappresenta dell'economia reale? In questo momento molto, perché sono 680 addetti retribuiti. 680.000, certo. Sì, addetti retribuiti, sono 4 milioni e 7 di volontari, quindi siamo tra un 4 e un 5% del prodotto interno lordo. Certo. Senta, però resta il fatto che tuttora il 55% dei prodotti finanziari circolanti sono ad alto rischio e sono concentrati su investimenti di breve periodo. È questo il cancro del mondo? Sì, lei pensi che anche i prodotti prudenziali sono scesi dal 65 al 25, quindi con una contrazione di 40 punti dal 2003 al 2009. Quindi sì, questa finanza è il cancro del mondo. Ecco, ma dottoressa Moratti, ma la crisi del 2008 allora non è servita proprio a nulla? No, è servita ben poco. Senta. Anche perché si è trascinata con la finanza cattiva, ha trascinato anche l'economia reale in questa crisi. Senta, ma lei vede qualche leader mondiale capace di imporre un'inversione di rotta dal modello imposto appunto questo dalle banche d'affari speculative globalizzate a un modello virtuoso? Papa Francesco anche recentemente ha parlato di una crisi che è una crisi d'epoca, quindi ha detto non siamo in un'epoca di cambiamenti, ma siamo in un cambiamento d'epoca. Sicuramente è un leader che ha una visione del mondo che va nella direzione giusta. E insieme a lui, naturalmente su un piano diverso, ma Attali con il suo movimento dell'economia positiva sta andando nella stessa direzione. Sir Ronald Cohen, che guida la task force del G8, sta andando nella stessa direzione. Quindi ci sono dei movimenti, per fortuna, sì, a livello globale in questa direzione. Ecco, dottoressa Moratti, lei parla di strumenti innovativi che, se usati in modo corretto, danno grandi benefici reali. Quali sono questi strumenti? Questi strumenti sono i fondi sociali di impatto sociale, sono, per esempio, a Londra è nata la borsa sociale che investe in imprese sociali, sono i social bond, i social impact bond, sono tanti. Ecco, voi avete incontrato con una delegazione dell'Europarlamento, vi hanno ascoltato su questo tema a livello europeo o no? Assolutamente sì. Sì, e lei dice che la finanza sociale può essere una risorsa formidabile per la crescita. Sì, perché viene incontro ai bisogni più profondi dell'uomo, a quei bisogni che in questo momento non sono soddisfatti. Sì, ma a livello di fondi strutturali europei, quanto investiranno nel terzo settore? Dal 2014 al 2020 il bilancio europeo mette quasi un miliardo per investire nella finanza sociale attraverso diversi provvedimenti, quindi cifre importanti. Ma sono tutti soldi per l'economia sociale, questo miliardo? No? Non tutti, però una buona parte di questi sono destinati all'innovazione sociale, sono destinati al microcredito, sono destinati ai fondi di impatto sociale. Quindi buona parte soldi. Sì, tanti. Senta, soldi. Ma siamo in grado di ottenerli per i nostri progetti, questi soldi? Dipende. Per il momento io lo chiedo perché l'Italia è famosa per non questo, saper sì, sfruttare esatto, le opportunità europee. Sì. Ecco, Lei come sindaco di Milano si era riuscita a sfruttare questi soldi europei? Beh, come sindaco i fondi sono dati dalle regioni. C'ero riuscita come ministro però, perché ero stata il primo stato ad avere investimenti dalla BEI sulla ricerca. Che è la Banca Europea degli Investimenti. Il primo stato europeo ad avere fondi sulla ricerca è stata l'Italia e l'avevo fatto io come ministro. Senta, restiamo un attimo a Milano però. Adesso le capita di passeggiare per la città e dire questo io non l'avrei fatto? Sì, quando guardo le buche e dico che bisognerebbe ricoprirle. Senta, invece questo avrei voluto farlo io? È coprire più buche. Ah, vabbè, insomma, è difficile fare il sindaco di Milano coprire le buche. È difficile. Senta, dottoressa Moratti, ma quando ha perso le elezioni? Lei ha detto che sarebbe andata in consiglio comunale. Non lo fa, perché? L'ho fatto i primi mesi fino a quando poi ho deciso di impegnarmi su questi nuovi fronti, la finanza sociale e il suo nuovo modo di far politica. Sì, esatto. Senta, ma tra sindaco, ministro, presidente della RAI, che cosa pensa di aver fatto meglio? Beh, non sono io che devo decidere e giudicare. Meglio allora che non giudichi lei. Sì. Senta, oggi il governo Letta ha annunciato delle nuove privatizzazioni. Lei privatizzerebbe la RAI? Beh, non sarebbe certamente tra le mie priorità. Ma vede dei problemi per rinnovo in esclusiva nel 2016 della concessione del canone alla RAI? La RAI deve rafforzare la sua identità di servizio pubblico ed arrivare preparata al 2016, altrimenti potrebbero esserci dei problemi. Lei, come sindaco, insieme a Prodi, al governo Prodi, ha portato l'Expo a Milano. È soddisfatta della direzione che ha presa? Soddisfatta di aver portato Expo a Milano? Un po' meno soddisfatta della direzione che ha preso, perché l'Expo nella mia visione avrebbe dovuto essere un Expo della conoscenza, un Expo di cooperazione internazionale, un Expo di sostegno ai paesi in via di sviluppo. Adesso il ministro Bonino sta riprendendo questi progetti e quindi speriamo di riuscire a riprenderli. Riaddrizzare il tiro? Sì. Senta, ma i cantieri aperti secondo lei si chiuderanno in tempo? Noi italiani siamo sempre bravi a riuscire a fare le cose, magari all'ultimo minuto, però in genere ci riusciamo. Ma lei è davvero convinta che ci saranno milioni e milioni di persone che vanno a vedere l'Expo? Sì, se ci attrezzeremo per riuscire a farli arrivare. Non brilliamo per i servizi turistici, anche i dati che sono usciti ieri sono preoccupanti, quindi molto. Meno 4%, quindi è questione di offrire dei servizi ai turisti che certo, vengono. Quindi, se no sono turisti per caso. Sì, oppure peggio ancora li perdiamo. Certo. Senta, torniamo alle imprese sociali. Investono sempre più imprenditori nel sociale perché, dice lei, anche dare, non solo prendere, può generare profitto. Cioè? Beh, diciamo che nel DNA delle imprese da sempre c'era la missione sociale. Poi probabilmente negli ultimi decenni lo Stato, gli Stati hanno avvocato a sé questa missione e quindi io credo che invece ci sia necessità di una ripresa di consapevolezza e di coscienza che l'impresa ha comunque. È un ridare anima all'impresa, certo. Ma lei pensa a un'impresa sociale quindi che renda? Sì, penso a un'impresa sociale che abbia come missione, e questa è la definizione di impresa sociale, che abbia come definizione nella propria missione l'impatto sociale di questa impresa, ma che abbia anche un profitto. Io penso a un nuovo capitalismo, una nuova forma di capitalismo. Ma quali strumenti finanziari sono funzionali a questo tipo di imprese sociali? Beh, i fondi di impatto sociale, il Social Stock Exchange di Londra, che è nato a giugno e ha già 22 nuove matricole di imprese sociali, i social bond e i social impact bond. Ecco, ma ci spiega in due parole semplici, così lo capisco anch'io, come funzionano questi social bond? Allora, i social impact bond sono dei fondi che vengono, sono dei bond che vengono emessi dal governo, collocati dagli investitori. Il governo ci guadagna perché fa fare ad altri servizi che non è più in grado di fare. Quindi risparmia. Risparmia. Gli investitori, se c'è risultato, guadagnano e anche il terzo settore è incentivato a lavorare con risultati che deve poi, sui quali deve render conto. Senta, ma a New York, per esempio, ho letto di un progetto dove si fanno lavorare i detenuti. E questo è il modello da importare in Italia? Sì, è il modello di New York, è anche il modello di altri social bond come quello inglese o come quelli australiani, certo. Australiani, perché anche lì ci sono degli esempi, eh? Sì, ce ne sono due, di cui uno proprio sui carcerati. Senta, cioè lo Stato spende meno, i servizi privati danno risultati, questo mi sembra la sintesi. Così un po'. Assolutamente così, lo Stato spende meno e i servizi privati danno risultati. Lei dice, per esempio, che San Patrignano fa risparmiare 33 milioni di euro lo Stato. Mi dice come? Perché non prende rette dalla regione attraverso l'ASL e quindi è completamente gratuito, perché non prende praticamente quasi nulla per mantenere i detenuti, e sono circa 200 i detenuti su 1300 ragazzi che sono totalmente gratuitamente. Cioè che sono i servizi sociali lì sostanzialmente. Sì, in pratica, sì, certo. E quindi sono, sommando le rette che non vengono prese, le famiglie che non pagano, sono 33 milioni di euro all'anno. Ecco, però c'è chi dice che questo è vero, perché non è contestabile, però è vero perché i ragazzi che sono lì lavorano e non sono pagati. Beh, i ragazzi che sono lì sono in cura, nelle altre comunità pagano o vengono pagati dalle rette dello Stato. Sono lì perché prendono un diploma, una qualifica, sono lì perché imparano un lavoro, sono lì perché vengono reinseriti. Quindi lei dice, riassumo, che i social bond servono a finanziare servizi che rendono, alleggeriscono lo Stato, fanno del bene, risolvono problemi nelle carceri, nelle comunità di recupero, capito? Assolutamente sì, e non solo in questi, perché ci sono social bond per diminuire per esempio i senza tetto, per andare incontro a problematiche, tutte le problematiche di prevenzione, quindi aiutano lo Stato là dove lo Stato non arriva. Senta, più che una finanza sociale mi sembra una finanza dei miracoli. Beh, è certamente una finanza migliore di quella che abbiamo visto fino adesso. Cambio di rotta completo. Sì. Ecco, ma c'è abbiamo proprio bisogno. Sì. Eh? Ma c'è sensibilità intorno a questo approccio, per esempio nelle banche locali? Assolutamente sì. Noi per esempio a San Patrignano abbiamo avuto un social bond fatto da Carim, che è una banca del territorio, e questo è molto importante perché sono tantissime le realtà diciamo del terzo settore che sono solo locali, non sono nazionali. Però hanno la sensibilità sul territorio. E quindi Carim, che è la banca, la Cassa di Risparmio di Rimini, ha innovato ed è stata la prima banca territoriale a emettere un social bond. E cosa bisogna chiedere subito al governo per rendere operativo questo modello? C'è qualcosa da chiedere? Sì, un progetto pilota e la modifica della legge sulle imprese sociali, che è la legge 155, che purtroppo è stata fermata l'altro giorno sul decreto Destinazione Italia. Cioè c'era un emendamento che era stato presentato dal senatore Bobba, largamente condiviso, per aumentare gli ambiti di operatività delle imprese sociali, per dare la possibilità agli investitori di investire, e questo emendamento è stato fermato, purtroppo, perché così non riusciremo ad avere i fondi europei. Ma perché questa legge era mirata sui fondi europei? Era una legge sulle imprese sociali che aveva dei limiti che ci avrebbero e ci impediscono, quindi, non essendo passato questo emendamento, di avere il beneficio di quei fondi europei che preferiranno investire in altri paesi dove la normativa consente loro di avere voce in capitolo. Ma ed è recuperabile questa cosa? Io mi auguro di sì. C'era un consenso ampio, quindi era un lavoro che avevamo fatto con un impegno bipartisan, quindi un incidente di percorso, quindi diciamo, mi auguro che non ci fosse qualche resistenza da parte di qualche settore del terzo settore piccolo, ma ancora contrario all'innovazione, forse contrario a rendere conto dei risultati, perché questo è un problema. Anche il terzo settore deve innovarsi, deve rendere conto. Senta, ma non ci sono queste finanziamento del 5 per 1000 che spesso dovrebbe andare in questa direzione e poi invece va a finire in altre direzioni, a finanziare delle fondazioni politiche, eccetera? Purtroppo sì. Purtroppo. Lì bisogna intervenire. Anche quello andrebbe regolamentato in maniera più rigorosa. Mm. Senta, dottoressa Moratti, ma intanto, a oggi, qual è il tasso di recupero dei tossicodipendenti di San Patrignano? 72% di quelli che hanno concluso il percorso, che è un percorso lungo, sono 3-4 anni, però 72% certificato da università indipendenti. Ecco, ma quando si dice recupero, che cosa si intende esattamente? Reinseriti nella società con un lavoro. Ah, e quanti restano a lavorare lì da voi? No, pochissimi. Ah, pochi. Ma sì, abbiamo circa un centinaio di volontari. Ma quanti sono a San Patrignano? Non abbiamo detto quanti? 1300 ragazzi che sono in cura gratuitamente in questo momento e oltre 20.000 quelli passati in questi anni. E con un turnover, circa 300 all'anno entrano e altri 300 escono. Ah. Senta, dottoressa Moratti, le faccio un'ultima domanda. Ma un po' mi ha detto prima, ma se il tribunale stabilisse il servizio sociale per Berlusconi, potrebbe essere San Patrignano la comunità dove Berlusconi va a lavorare? Se lui decidesse di obbedire ai ragazzi che comandano la comunità di San Patrignano e se i ragazzi decidessero di prenderlo, Perché no? Dipende. Senta, ma perché sono i ragazzi che accettano ciascuno che entra? Certo, sono i ragazzi che guidano San Patrignano, come era nel sogno di Vincenzo. Sono loro. Accettano, cioè quando uno arriva sono loro che dicono certo, fanno sì. Dei colloqui per valutare se San Patrignano è il posto giusto. Quindi sono loro che guidano San Patrignano, sono loro che comandano, sono loro che decidono. Quindi come nel sogno di Vincenzo. E quindi se decidessero di prendere Berlusconi... Se Berlusconi lo chiedesse e accettasse le regole e loro decidessero di prenderlo... Sto perché no, non riesci a dirlo. Va bene. Grazie, dottoressa Moratti, grazie. Mix 24. 800 24 0024 SMS 349 238 6666. Siamo in diretta Mix 24. E allora, Mario e Pietrangelo, ecco. Mario, che titolo faresti per l'intervista della Moratti? Nonostante la pioggia, mattinata Letizia. Pietrangelo, tu? E la notizia, Berlusconi a San Patrignano. Senti, ci chiamano boschi abbandonati e perciò sopravvissuti vergini si aprono, ci abbracciano. Questa è la canzone ci dovrebbe aiutare ad affrontare questa settimana? Sì. Metterci un po' d'allegria? Allegria, allora, sono pietre un giorno case che rivivono, boschi abbandonati che ritornano. Ho scelto apposta la parte corale, la parte in cui c'è questa immagine poetica e poi tutti insieme cantano perché questa canzone giusto oggi ci aiuta a ricordare. Giusto, Mario? Foibe. Foibe. Le foibe sarà la storia che avremo nella seconda ora di Mix 24. Racconteremo appunto questa storia drammatica che è venuta fuori soltanto nel 91 e Graziano Udovisi, testimone estratto dalle foibe, un piccolo estratto potete sentirlo di questa testimonianza drammatica. Eravamo in un campo di concentramento in un gruppo di 15 o 16 persone ancora nuovamente legate con i fili di ferro e accostate a due e ancora legati gli avambracci vicini siamo andati e ci siamo portati verso Barbana. In questo cammino i nostri accompagnatori, la pattuglia che ci portava, che ci accompagnava, che ci trasferiva, persone giovani si sono divertite un tantinino a farci mangiare pezzi di carta, a volere a tutti i costi che mangiassimo e deglutissimo dei sassi, e si divertivano ogni qual tanto a spararci con i fucili vicino alle orecchie per vederci sobbalzare. Beh, drammatica. Beh, drammatica testimonianza. La storia non finisce mai di dare lezioni. E c'è un italiano in particolare che mi piacerebbe ricordare, che ha fatto tanto, oltre che per il ricordo, anche per gli italiani che hanno conosciuto quell'epoca e per essere dimenticati, ed era Ottavio Missoni. Fece tantissimo per aiutare la comunità di italiani fuori dall'Italia. Verissimo. Ne parlammo in un faccia a faccia. Mario, che cosa bolle in pentola oggi? Allora. No, dunque, non possiamo non parlare di... Allora, e non possiamo non parlare di Svizzera, no? La ridente. Beh, Svizzera, perché? Perché ieri è capitato qualcosa. No, un referendum vinto per un soffio, un poco sopra il 50%, però mette dei limiti all'immigrazione. Da dove? Dall'India? Dal Brasile? Dal Nord Africa? No, dall'Europa. Quindi, signore e signori, è chiaro che quello che è successo in Svizzera non è un fatto liquidabile come un piccolo incidente, è un altro segno della storia, come amo chiamarli io. E naturalmente va fatta una riflessione, perché questo significa che nell'architettura europea c'è qualcosa che non va, e anche al netto del neutralismo, della storia della Svizzera, del loro particolare carattere e così via, ripeto, quindi, va fatta una riflessione. Quindi queste elezioni europee saranno sempre più importanti. Sono importanti e delicate. Naturalmente dalla Svizzera ci arrivano anche altre notizie. Certo. Qualcosa di buono da Ginevra per l'Italia, per esempio, no? Sì. Allora Paola, oggi il CERN, per celebrare i suoi 60 anni di vita, ha lanciato un concorso a tutti gli studenti sopra i 16 anni di tutto il mondo. Ma che concorso è? Si chiama Beamline for Schools, ovviamente è un concorso in inglese, però possono partecipare studenti appunto di tutto il mondo al di sopra dei 16 anni di età. Mettiamo a disposizione di un team di studenti, di 9 ragazzi e 2 coach adulti, il nostro fascio sperimentale di uno degli acceleratori, un acceleratore piccolo, non l'HC ma il PS, comunque una linea sperimentale vera utilizzata da scienziati di tutto il mondo. Li mettiamo a disposizione di questi ragazzi per fare il loro esperimento, un esperimento che loro propongono con la loro creatività. E come si faceva a partecipare? Quando uno propone un esperimento al CERN manda di solito una lettera di intenti. Per questo concorso abbiamo stabilito la prima selezione attraverso il tweet di intenti, cioè 140 caratteri, un tweet, in cui bisogna specificare qual è la propria intenzione, in particolare motivazione e creatività in questa prima fase. Adesso dovranno elaborare una proposta scientifica come si deve. Da che parte del mondo avete ricevuto più tweet of intent? Allora, se guardiamo la mappa mondiale, i tweet of intent sono arrivati da tutto il mondo, ma il più gran numero di tweet è arrivato dall'Italia. Abbiamo avuto 85 tweet italiani, fra cui vorrei citarne uno che mi è piaciuto davvero moltissimo, di una scuola, secondo me, che viene dall'Aquila, in cui loro dicono: vogliamo dare una speranza alla nostra scuola dopo la terribile esperienza del terremoto, per dimenticarla e sviluppare un progetto essenziale per il nostro futuro. Chi deciderà il vincitore? Allora, le proposte saranno selezionate esattamente nello stesso modo in cui selezioniamo le proposte scientifiche degli esperimenti normali, cioè c'è un comitato di pari, la peer review, che rivedrà tutte queste proposte nella loro forma finale e deciderà appunto quale merita di essere ospitata poi al CERN per una settimana a realizzare questo esperimento. Quando si saprà? L'esperimento si dovrà fare a luglio, chiaramente entro il 31 maggio diremo chi è il vincitore. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Allora, era Paola Catalpano del gruppo di comunicazione del CERN, una bella iniziativa, c'è anche l'Italia presente, speriamo che vada tutto bene. Nell'eccellenza. E adesso ci spostiamo da un'altra parte del mondo, Giovanni. Allora, è un canto, canzone tradizionale siriana, perché riprendono i famosi colloqui di pace. Finora, ahimè, niente è andato a segno, o meglio, è andata a segno la strategia di Putin e della Russia di tenere in stallo gli americani. A dire il vero, caro Giovanni, spero tu convenga su questo, non è che gli americani abbiano una linea molto chiara su che cosa fare in Siria, mi pare, no? Mi sembra che siano molto confusi, sostanzialmente. C'è Pietrangelo col dito alzato! Vorrei soltanto ricordare ed evocare ed annunciare una luce particolare che ogni giorno si leva dall'alba di Damasco e nasce dal minareto di Gesù nella moschea Umayyad, una delle più belle moschee al mondo, che appunto c'ha questo minareto dedicato alla memoria del profeta Gesù. Meno male, speriamo non vengano toccati, bombardati, come è successo ad altri tesori e gioielli del Medio Oriente. Quindi questa, è importante questo, che questo è importantissimo, che Salamini venga preservato. Chissà che cosa ci racconta Buttafuoco. Cosa adesso ci racconta? Aspettiamo. Ma vi racconto, eccolo, di un fatto, vi racconto anzi di uno scritto, vi racconto di un qualcosa che non è, che è un reportage, che è un'inchiesta, uno straordinario pezzo giornalistico di Salvatore Merlo sul Foglio di sabato, ma che Merlino. Che gli ascoltatori potranno trovare andando sul sito del Foglio, e l'invito a leggerlo, perché ribalta quella che è stata fino a oggi tutta la questione legata ai fuochi in Campania, i cosiddetti fuochi fatui, nel titolo di cui si parla in continuazione, certo, anche noi. E io ve lo segnalo perché È molto controcorrente. Ribalta quel chiacchiericcio sporcificante e tossico, come lo definisce Giuliano Ferrara, in questa sorta di apocalisse a metà tra il camorristico e il tossico, su cui tutti ci siamo abituati, ma soprattutto siamo incappati nel riflesso condizionato. Quindi, per capire meglio, anche aiutandosi su quello che hanno fatto i carabinieri, cioè hanno accompagnato di volta in volta passaggi di verità su questa cosa. Sì, è vero. Molto interessante. Effettivamente torneremo anche noi su questo tema, perché... Beh, io ricordo un paio di domande che abbiamo fatto al prete della rivolta e così Don via, che insomma non c'erano delle risposte molto chiare. Il sacerdote dovrebbe ricordarsi la differenza che c'è tra il reale e la verità. E a questo punto una dedica. Arrivano, finalmente hanno capito che qualcosa qui non va. Arrivano i buoni di Edoardo Bennato, dedicato appunto ai buoni. Beh, i buoni, non lo so, io probabilmente la mia infanzia è, perché io quando evocavano i buoni pensavo a questo. Coldplay! Coldplay, avanti! Goldrick, ma tu te lo ricordi Buttafuoco Goldrick, no? Certo, però non ho mai capito se Goldrick era il buono o era il cattivo. Ma no, ma i cattivi erano quelli di Vega, mamma mia, ti mancano i fondamentali in no, questo. No, il fatto è che io sto sempre coi cattivi. No, perché Goldrick? Vabbè, Giappone, Tokyo. Tu come quando giocavi con i soldatini, come li schieravi? Indiani o cowboy? Io sono sempre stato coi troiani cowboys. Troiani o okay, No, coi cowboys. Ecco, vedi, e io sono sfortunato, perché io sono sempre coi cattivi. Pelle rossa. Comunque a me piace. Pelle rossa. Vabbè, se io... vuoi andare alla classicità, comunque mi piacevano tanto gli spartani. Vabbè. Vabbè. Poi non mi avventuro in epoca contemporanea. Andiamo avanti con l'inno russo. No, solo per dire che a Tokyo, il Giappone era importante per questo, ricominciano col programma di produzione di energia nucleare. Il ministro Yoichi Masuzoe ha proposto non il piano. Non mollano. No, ma quelli sono giapponesi. Sono in una fase di... Sono famosi per non mollare. No, mai. È fase di ascesa. Vedrai. Mentre i russi, salutiamo così il grande record di Yulia Lipnitskaya, che a 15 anni nella gara individuale di pattinaggio artistico ha raggiunto il punteggio record di 141.51. È il secondo punteggio mondiale di sempre, un grandissimo talento, ma anche noi abbiamo qualcosa. Perché non ci sono solo i giovani, caro Minoli, ci siamo anche noi vecchietti, perché ormai pure io. Grande Zöger. Grandissimo, grandissimo. Allora, vinto la sesta medaglia, sei Olimpiadi, unico al mondo. Un esempio, un vero, esempio, un esempio piccolo tributo, tutti. E c'è il nostro inno, insomma. Barbie, perché? Tu mi dirai. Perché? Perché mi voglio occupare anche di giocattoli. Sai che io guardo tutte le trimestrali, le cose di borsa, eccetera, e così via. Insomma, la Mattel, che è quella che produce Barbie, ha avuto nell'ultimo trimestre del 2013 le vendite mondiali al meno 6%. E Barbie vende meno 13%. Oggi i risultati di Hasbro, quelli di G.Jo. Il canzoniere, 8. Pietrangelo 800 24 00 24, il numero verde 349 238 6666, l'SMS qual è? Oggi è l'incipit di un classico della filosofia, così do un aiuto, no? Vado alla lettura. Nella previsione di dover presentare tra breve all'umanità la più severa domanda che mai le sia stata posta, è fondamentale dire qui chi sono io. Questo è l'incipit di un grande libro di filosofia. Pubblicità. Mix 24. 800 24 00 24 34, il numero verde 349 238 6666, l'SMS. Pietrangelo, rileggi l'incipit del nostro gioco. Nella previsione di dover presentare tra breve all'umanità la più severa domanda che mai le sia stata posta, è fondamentale dire qui chi sono io. Aspettiamo le vostre risposte per sapere chi ha vinto e ha indovinato questo incipit. Intanto, professor Simonelli, buongiorno. Al telefono, buongiorno. Buongiorno. Che cosa ci racconta del canone di ieri sera? Dov'era il canone ieri sera? Troppo facile oggi la domanda. Il canone era sicuramente su Rai 3. Alla sera, ma attenzione, non da Fazio, che pure ha fatto una cosa eccezionale con i tre reduci dal Festival di Berlino, ma dopo Fazio, nel momento in cui Alberto Angela ha mandato in onda il documentario della serie Ulisse sui bronzi di Riace. Perché era un documentario nello stile classico, no, di Alberto Angela, che rievocava la scoperta, la casualità, anche la casualità molto avventurosa della scoperta, l'esplosione della moda anni 80, ricordate le code a Roma, a Firenze per vedere i bronzi che diventano come dire, quasi un modo di dire, no? Un fenomeno assolutamente popolare, e poi la fase ulteriore, l'ulteriore restauro e finalmente la nuova esposizione nel nuovo spazio di Reggio Calabria. Ma ho scelto questo perché proprio ieri è scoppiata una polemica molto illustrata dalla stampa, da Alberto Mattioli, per la mostra che c'è a Bologna su Vermeer, e si è tornati a fare il vecchio dibattito mostra o spettacolo, evento o cultura, eccetera eccetera, con i soliti interventi di Daverio. Vabbè. E di Sgarbi. Ecco, mi sembra che insomma parlare in un momento come questo in cui si discute molto della esposizione, dell'esibizione delle opere d'arte e del valore di questa esibizione, parlare dei bronzi di Riace sia più che un dovere, una cosa assolutamente ineludibile. E stasera ci dobbiamo aspettare qualcosa da Iacona, che tornerà sui dovremmo aspettarci sui fuochi. Qualcosa da Iacona, perché insomma Iacona ultimamente ci ha anche abituato a fare cose anche originali nella sua linea. È un giornalista che io apprezzo molto perché ha una linea, ha uno stile anche suo molto particolare, che però riesce ad adattare anche a situazioni diverse. Posso tornare a ieri? Sì, certo. Posso tornare a ieri perché vorrei porre un problema a cui avevo già accennato e a cui avete accennato anche voi poco fa con i vostri inni. Ieri è stata una giornata molto particolare per l'Italia, sì. Con due medaglie a Sochi. Abbiamo e detto. Purtroppo, ma così va il mondo, la RAI era assente nella diretta sia al mattino che alle 19 quando Zögler ha fatto la sua dicenza. Ma sono in esclusiva su Sky le Olimpiadi. Questo è il problema, perché effettivamente è un momento in cui l'Italia, anche inaspettatamente, fa questa bella domenica di vittorie e il servizio pubblico non c'è. Però erano carissime i diritti. Quanto dovremmo pagare di canone per avere sul servizio pubblico in diretta questi eventi? Il canone della RAI è il più basso d'Europa. Appunto. Quindi se chi dice ma la RAI dov'era, rispondiamo anche il meno pagato. Se la RAI fosse lì, anche il meno pagato tu, certo. Il canone. E voi l'avete vista la televisione ieri? Il canone dov'era per te, Mario? C'era un film bellissimo su Sky Vita di Pi. Pietrangelo, è inutile chiederlo. No, io ho visto una cosa che... Hai visto il professore? No, il professore purtroppo no. Buongiorno professore, sa benedica a lei. Allora, io ho visto una cosa che si chiama Eco della Storia. È un programma dove ho capito soltanto che copia Umberto Eco e copia te. Dirai storia. Non infierisco. Dimmi. Abbiamo bisogno qua di un aiutino. Di un aiuto. Uno dice, così parlò Zarathustra di Nietzsche. Aiutino. Allora, il libro è stato concepito, scritto, forgiato, incendiato in una città italiana, più precisamente a Torino. Un aiuto ulteriore lo posso dare perché è legato anche all'episodio di un cavallo. Insomma, c'è tanto di lapide a Torino che ricorda quest'incipit. Almeno a Torino dovrebbero saperlo che cos'è. Forza torinesi! E intanto lì c'era il tuo amico Riotta, di quello parlavi? Sì, copiava Eco e te. Ho capito come si fa il format. Hanno indovinato! Passa! Sta arrivando! Chi è? Arrivando. Riotta? No, chi ha indovinato? Vabbè. Pronto? Dov'è? Pronto? Vabbè, intanto, professore, noi mandiamo un'intervista con Luigi che produce The Pills, una web series che ha molto successo sulla rete. Sara Tardelli l'ha intervistato. Allora, Luigi, l'idea di The Pills, la vostra web series, è nata nel salottino dove vi vediamo sempre? Sì, più o meno. Diciamo che la nascita dell'ibrida di The Pills è un'idea molto veloce, legata al fatto che praticamente noi collaboravamo per una rivista. Questa rivista necessitava di una parte, diciamo, di sketch, e allora Luca aveva pensato di fare questa cosa mettendo in scena quelle che poi erano le nostre fantasie e le nostre idiozie che uscivano fuori le sere che passavamo esattamente in quel salottino cucina. Come è nata questa passione? Una cosa che avevate da sempre, oppure avete iniziato per gioco e poi avete capito che poteva diventare il vostro lavoro? Luca ambiva più a essere regista, io volevo fare lo sceneggiatore. Ho provato a entrare al centro sperimentale, ho fatto tutti quanti i lunghi test, così finché al test finale non sono stato ammesso. Ogni tecnologia ha il suo linguaggio, no? Ma mi spieghi quello del web qual è? Sicuramente dei tempi molto veloci, e sicuramente deve essere in grado di catturare l'attenzione di chi ti sta guardando in poco tempo. Che numeri fate? Adesso il canale ha raggiunto le 5 milioni di visualizzazioni. Presto vi vedremo su Italia 1. Cosa vi spaventa di più? Niente di niente, perché personalmente, ma parlo a nome di tutti quanti, penso che il web sia il territorio più difficile. Penso che la televisione sia sicuramente perché fondamentalmente è un media freddo, è un media in cui non hai un feed attivo, non ci sono dei commenti sotto, non ci sono dei like. Insomma, il web è una vera e propria arena. Di che partito della rete siete voi di The Pills? Di chi crede che vedere gratuitamente noi contenuti sia un sinonimo della libertà di informazione, oppure invece pensate che la tutela del diritto d'autore, quindi delle regole, possano tutelare la vostra creatività? Ma credo che sicuramente deve essere regolamentato in qualche modo questo processo. Bisogna essere in grado comunque di garantire la possibilità alle persone che si esprimono anche nel web per poter campare tramite quello che loro fanno. Netflix ha creato un modello di business che è assolutamente remunerativo. Questo ha permesso di produrre delle serie TV che sono praticamente altamente competitive a quelle che sono i competitor televisivi come HBO o CBS. E questo l'ha fatto anche educando il pubblico del web e facendo maturare in loro la consapevolezza del fatto che tutto gratuitamente non potrebbe mai generare un prodotto qualitativo. Grazie Luigi, in bocca al lupo. Grazie. ha vinto Mara, si chiama Mara. E che cosa ha detto? Ecce homo. Giusto. Giusto. Evviva Mara. Brava. Allora, professor Simonelli, che dice di queste web series? Beh, vabbè, questo è un fenomeno interessante, importante, però da anni aspettiamo il grande passaggio, cioè quando queste web series diventeranno davvero una forma di produzione che poi riguarda anche la TV generalista. Insomma, senta, c'è Matteo che dà ragione a lei, professore, perché dice: per vedere le Olimpiadi pagherei lo stesso canone, evitando di spendere per avere Sanremo. Cordialità, Matteo. Bene. Allora, cominciamo la polemica delle prossime settimane. Ah, esatto. Che meraviglia. Però bisogna avvisare Matteo, io sono un sanremista. Ah, va bene, allora Matteo, il professore, non è d'accordo. Intanto, oggi, nel giorno della memoria delle foibe, come abbiamo detto, raccontiamo di questo massacro tenuto nascosto molto lungo e raccontiamo anche come è venuto alla luce attraverso un'intervista a Marco Dolcetta curata da Marina Milone, che cura naturalmente come sempre tutta la storia.